Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Benvenuti a questa nuova puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloons. Siamo allora arrivati, ahimè, all'ultimo appuntamento con il pioniere di Cipollino, Atomino e Chiodino di questa stagione. Una pausa estiva per poi ripresentarci ad ottobre alla ripresa del nuovo palinsesto. Per salutarci magari è giusto ripercorrere i passi di Gianni Rodari, grande artefice con la Rinaldi di questa avventura editoriale per ragazzi. E lo vogliamo fare con una sorta di diario dello stesso Rodari, arricchito poi con alcune sue interviste, cominciando dal dopoguerra, quando il giovane cronista approdò all'Unità scrivendo per questo giornale filastrocche per bambini. Supermerca, gran via vai, autobus e tramvai, e la gente più umana. Ma in detto un gran pulpetù, ma se salvavo un canto. O cenciaiolo che hai nel sacco, una scarpa senza tacco, un vecchio abito da sera con più buchi del groviera, una tromba ormai sfiatata, una pentola sforacchiata, una giacca senza bottoni, ossi e penne di capponi e in fondo, col naso per terra, un ministro della guerra. Facevo queste filastrocche e firmavo Lino Picco. E per un paio d'anni andai avanti così, senza pensarci troppo. Però quel lavoro mi piaceva sempre di più. Tra l'altro con la scusa che erano cose per bambini. Potevo farle come mi piacevano. Potevo dire quel che avevo in mente nella maniera che più mi piaceva. Potevo giocare con la fantasia. Anche Vie Nuove cominciò a pubblicare abbastanza spesso le mie filastrocche. Prima che me ne fossi reso ben conto, ne avevo messo insieme un buon numero. Io non le avevo nemmeno ritagliate dal giornale. Nel 1950 andai a Roma a dirigere il settimanale per bambini Pioniere di nuova formazione, insieme con Dina Rinaldi, che ebbe l'idea di fare un libretto coi miei testi. Dovetti penare un po' per metterli insieme. Si chiamò Il libro delle filastrocche ed ebbe abbastanza fortuna perché in due anni, tra Roma e Firenze, se ne fecero tre edizioni. Io penso che si debba cercare di non di parlare come il bambino, ma di parlare come il mondo di oggi. Il mondo parla oggi al bambino non solo attraverso le parole dei genitori, ma parla attraverso le immagini, attraverso le macchine, attraverso tutto quello che anima il mondo di oggi. Bisogna trasformare tutto questo in parole se si vuole fare un libro, e non bamboleggiando, ma semmai un gradino più in su, perché al bambino piace salire un po'. Quando è molto piccolo e gioca a spostare i mobili, lui vuole spostare subito il tavolo che è più pesante, non si accontenta di spostare il seggiolino che è piccolo. Perciò il linguaggio è una cosa che deve farlo crescere. Dina Rinaldi e il sottoscritto ricordano bene le settarie e furibonde campagne da Guerra Santa che accolsero l'uscita del settimanale Pioniere, bruciato sulla pubblica piazza di, meglio non dirlo, fiamme passate, acqua passata. L'associazione Pionieri d'Italia ha lo scopo fondamentale di fornire ai ragazzi la possibilità di una vita organizzata, intensa, gioiosa, interessante ed educativa. Educare i ragazzi incanalando la loro naturale sete di movimento e di novità, la loro gioia di scoprire e di fare, in attività utili alla formazione di un cittadino democratico. La campagna di calunnie dei cattolici contro l'Associazione Pionieri d'Italia, presentata come uno strumento comunista per la corruzione dell'infanzia, e la stessa azione violenta contro le colonie per l'infanzia dell'Unione Donne Italiane, dei Comuni Democratici e delle Camere del Lavoro, sono stati e sono, per certi aspetti, episodi di una lotta accanita per minare nella famiglia la forza del movimento democratico, per fare della famiglia uno strumento reazionario. Filastrocca del gregario, corridore proletario, chi è i campioni di mestiere deve far da cameriere. E sul piatto senza gloria serve loro la vittoria, al traguardo quando arriva non applausi, non è viva. Per il Pioniere, insieme a Raul Verdini, avevamo inventato certi buffi personaggi, tutto un mondo di frutta e verdura, cipollino, pomodoro, il principe limone, eccetera. Quei personaggi mi piacevano, mi ricordavano i miei primi anni all'unità, quando lavoravo in cronaca e mi occupavo di questioni alimentari, e ogni giorno facevo il giro dei mercati, guardavo i prezzi, parlavo con commercianti e massaie e scoprivo tanti problemi nella borsa della spesa della gente. Presi un mese di vacanza, trovai ospitalità in casa di un bravo contadino di Gaggio di Piano, presso Modena, che sgombrò una stanza granaio per mettermi un letto. La sezione del PC mi prestò la sua macchina da scrivere e cominciai a scrivere Le avventure di Cipollino. Fu un mese bellissimo. Le figlie di Armando Malagodi, il contadino che mi ospitava, mi chiamavano la mattina presto. «Su, Gianni, che sei qua per lavorare, mica per dormire!» Scrivevo quasi tutto il giorno, in camera, in cortile o in cucina, con la macchina su una sedia, e intorno sempre un po' di bambini a guardare quello che facevo. Quando arrivai a pagina 100, la moglie di Armando fece la crescente, la chiamano anche il gnocco fritto. Armando stappò delle belle bottiglie, insomma, festa per tutti. Se inizi con un sol mattone non riuscirai mai a costruir qualcosa che chiamar casa potrai. Se i tuoi mattoni prenderai e in fila li metterai, dal freddo e dalla neve ancora. ancora non ti riparerai. E fu così che dopo la fuga dei frutti e delle verdure corrotte si cominciò a respirare un'aria nuova nel regno, un'aria che ben presto mise tutti i suoi abitanti in grado di sviluppare al massimo le proprie attitudini e le potenzialità. Cipollino e i suoi amici iniziarono così a vivere in serenità, e questo è quanto dovrebbe accadere in tutti i paesi del mondo. Mi sono arrivate dall'Unione Sovietica due edizioni delle mie filastrocche, un volumetto di 150.000 copie e un altro di 35.000 copie, tirature per l'Italia inaudite. Sono in arrivo anche le traduzioni del romanzo di Cipollino in tedesco, polacco, bulgaro, russo. Ho avuto richieste dalla Francia, dalla Cecoslovacchia. A est della cosiddetta cortina di ferro sono più conosciuto che a Gavirate. E la cosa mi mette abbastanza allegria. Direi che a casa si può fare sempre meno. La famiglia è un mondo che sempre meno può risolvere i suoi problemi restando chiuso nelle quattro pareti. Intanto bisognerebbe avere nelle case spazi da dare ai bambini, questi spazi costano, non si possono dare agli adulti, non si danno neanche ai bambini. Bisognerebbe avere strumenti, attrezzi, bisognerebbe avere una preparazione psicologica che noi come genitori non abbiamo. Voglio dire, poco possiamo fare isolati, una famiglia in sé. Ho rubato una rosa al padrone di casa. La primavera fa l'uomo ladro, la primavera è la finestra ventosa e l'aria di mille amori invasa. La mia parte di mattino ho respirato alla finestra della primavera. Ho pagato l'affitto, ma la rosa l'ho rubata. Teresa, quando ti ho dato quella rosa, rosa rossa, mi hai detto: prima di te io non ho amato mai. Teresa, non sono mica nato ieri, per te non sono stato il primo, nemmeno l'ultimo, lo sai, lo so. Ma Teresa, di te non penso proprio niente, proprio niente. Mi basta restare un poco accanto a te, a te. Amare, come sai, tu non sa nessuna. Non devo perdonarti niente, mi basta quello che mi dai. Teresa, quando ti ho dato quella rosa, rosa rossa. Teresa, quando ti ho dato il primo bacio sulla bocca, mi hai detto: adesso cosa penserai di me? Teresa, sono mica nato ieri, per te non sono stato il primo, nemmeno l'ultimo, lo sai, lo so. Ma Teresa, di te non penso proprio niente, proprio niente. Mi basta restare un poco accanto a te, a te. Amare. Abbiamo visto in diverse puntate trasmesse come il pioniere fosse l'antidoto alla propaganda razzista, militarista e sciovinista del trentennio mussoliniano, ammanita questa propaganda giorno per giorno da fogliacci come il Balilla. Guardiamo quel mondo fascista con gli occhi di una bimba, allora Giulia Maffai, divenuta poi raffinata redattrice del Pioniere e illustratrice del primo libro di Rodari, parole registrate nel maggio scorso al convegno nazionale promosso dall'Udi a Roma proprio sul tema del fumetto comunista degli anni 50. Io ho memoria dei giornali per i ragazzi prima del Pioniere, quando negli anni 35-36 era una corsa al sabato con il soldino in mano che ci davano da giornalaio a comprare il Corriere dei Piccoli o Mandrake o l'Avventuroso eccetera eccetera. Quindi la letteratura per ragazzi era ricchissima, negativa, reazionaria, antistorica, ma era ricchissima. Il Corrierino dei Piccoli era proprio l'estrema espressione della borghesia italiana, no? Proprio stop, eccetera, eccetera. Topolino c'aveva già un'aria un attimo internazionale, perché veniva da Walt Disney, era un personaggio non italiano, non era nemmeno un personaggio europeo. E quindi è incredibile, ma c'erano già due squadre, una squadra pro e una squadra contro. Chi comprava il Corrierino dei Piccoli non era il personaggio o la famiglia, perché i giornali ovviamente venivano anche, non è che c'era l'autonomia di oggi, era la famiglia indirizzava su una strada piuttosto che un'altra. Ricordo, io sono di famiglia ebraica, ricordo con grande disgusto che nei giornalini per i ragazzi c'erano vignette antisemitiche, dove veniva questo ebreo sempre laido, sempre mascalzone, sempre ladro, se non assassino, ritratto proprio della sua caratteristica somitica, il naso adunco, i cernietti, le mani da ladro. E io che venivo da una famiglia povera, però di grande ricchezza intellettuale, perché i miei genitori erano grandi, ero stupita di vedermi in un certo senso, teoricamente, ritratta in questo personaggio. Assalon ne mordivò, si lamenta come può. E il furbissimo giudeo vara un tale piagnisteo che, commosso, il buon Pierino gli dà il pranzo e il borsellino. Assalonne, lesto lesto, mangia il pranzo e in tasca il resto. Ma un amico di Pierino dice, aspetta un momentino, guarda l'oro che c'è sotto questo sudicio cappotto. Il furbone smascherato a dovere è sistemato, imprecando a Zaccaria per di soldi per la via e correndo fino a sera attraversa la frontiera. L'ebreo è sempre brutto, sporco e cattivo, secondo le filastrocche dei Balilla. Ma poi arriva una speranza dall'America con l'avventura di Mandrake e del suo servitore Lothar, fumetto ideato da Lee Falk, autore anche poi del successivo Uomo Mascherato, e disegnato da Phil Davis, che sollievo per allora bimba Maffai. Mi piace raccontarvi che in questo contesto, parliamo 1938, quindi prima della guerra, in America un grande vignettista, di cui io ignoro, dimentico il nome, inventò il grande personaggio di Iron Man e di Mandrake. Ed era un giovane ebreo viennese che aveva ricreato in questo personaggio mitico, forte, libero, coraggioso, l'eroe dei nostri tempi, che oltretutto è molto carino il personaggio, perché è un double face. Nella vita normale è un mezzo deficiente, un mezzo incappato, un impiegatuccio di terza categoria che ha paura di qualunque cosa, no? Della pioggia, del caldo, del freddo, ed è l'ultimo della ruota del carro. E nei suoi sogni, diventa questo mitico eroe che combatte e vince per il bene. Questo tanto per farvi un antefatto. Di avventura in avventura, Mandrake il mago e il suo fido compagno Lothar raggiungono l'Egitto. Non potremmo fermarci un po', Mandrake? Guarda quei tre viaggiatori, Lothar. Quelli non pensano certo a fermarsi. Svelto, Lothar, quella ragazza è in pericolo. Cosa vieni a fare tu? Via o sparo? Davvero? Ma io sono curioso. E... attento, il tuo fucile ti scivola fra le dita. Un mago? Un fachiro? L'ha scampata per un pelo, signorina. Quei predoni... Non so come ringraziarla, ma quelli non erano predoni, volevano uccidermi. Ucciderla? E perché? Erano le mie guide. Immagino però che siano state pagate dai miei cugini. Ho bisogno di aiuto. Sono alla ricerca di un tesoro. Mi chiamo Elizabeth Jarret. Sono sola e devo difendermi da chi vuole sbarazzarsi di me. Ha detto un tesoro? Oro, gioielli tra le sabbie del Sahara? No, sto cercando un numero e la traccia successiva. Non capisco. Un numero e la traccia successiva, cosa vuol dire? Glielo spiego, Mandrake. 6 mesi fa, mio zio Roger è morto. Era ricchissimo ed era stato un giramondo. Così, quando io e i miei cugini ci ritrovammo per la lettura del suo testamento... Tutta la enorme fortuna di vostro zio è chiusa in questa cassaforte di cui nessuno conosce la combinazione. Vostro zio aveva uno strano senso dell'umorismo. Durante i suoi viaggi ha nascosto i 4 numeri della combinazione in 4 posti diversi, in diverse parti del mondo. E voi dovrete trovarli. Chi per primo li avrà tutti e 4 erediterà tutto. Ma come? Miss Augusta, vostro zio ha lasciato un messaggio che porta al primo numero. Quando lo avrete trovato, troverete anche una traccia per il secondo, e così via. E così il notaio ci consegnò la prima indicazione. Che idea fantastica! E lei dice che ora i suoi cugini le si sono messi contro? Sì, tutti e 3. Augusta la più cattiva e i suoi 2 fratelli. Mandrake, se almeno potesse aiutarmi. Raggiunto il Cairo, Mandrake si interessa della strana faccenda. Allora, a Cheope il vecchio ha un dolore nel collo. Cosa vorrei dire? Naturalmente Cheope è la piramide. Quanto al resto vedremo. Ora però, Elizabeth, lei ha bisogno di riposare. Intanto ci penserò su. Mandrake, grazie. I 3 cugini di Elizabeth tengono consiglio. Ma Augusta, quegli arabi potevano ucciderla. Il mio ordine era solo di spaventarla. Ma perché non dividiamo? L'eredità dovrebbe bastare per tutti. Non dividiamo niente. Carl, vieni con me. Pete si sta rammollendo. Bisogna andare alla piramide stanotte per cercare il numero. Fai in modo che Elizabeth non ci segua. Intanto, dentro la piramide di Cheope... Non riusciremo mai a trovare quello che cerchiamo. Sento dei passi. Presto, venga. Mandrake, aiuto! Una mummia. Abbiamo avuto fortuna. Ecco quello che cercavamo. È la soluzione del primo enigma. Il vecchio ha un dolore nel collo. Il primo numero della combinazione è il 5. Ma a cosa ci servirà? Augusta e gli altri ci staranno aspettando all'ingresso della piramide. Ah già, i cari cugini. Per loro ho in mente un altro piccolo scherzo. Ma Augusta, non vorrei mica sparare a Elizabeth. No, il mio bersaglio è Mandrake. Guardate! Benvenuti nella mia piramide. Scusate se non vi offro nulla, ma ho smesso di bere circa 4.000 anni fa. Vi prego, non fuggite. Sono secoli che non ricevo visite. Che cosa è successo? Un trucco di Mandrake, ne sono sicura. E noi ci siamo cascati. Io comincio ad averne abbastanza. Mandrake, come mummia lei è stato fantastico. Il trucco ha funzionato. Ora leggiamo la traccia per poter proseguire nella nostra caccia al tesoro. A Cerebi c'è un idolo con un occhio rosso. Ci troverai il numero se conservi la testa. Ma cosa significa? Cerebi. È un'isola dei mari del sud. Mandrake ed Elizabeth sono tornati all'albergo del Cairo. Il portiere dell'albergo mi ha detto che Elizabeth ha telefonato a un'agenzia di navigazione. Ciò significa che ha trovato la seconda traccia ed è pronta a partire. Tieni d'occhio la sua stanza, Carl. Appena esce la seguiamo. Mi sorvegliano. Oh, Mandrake, mi dispiace di averla cacciata in questo impiccio. Ma se non mi sono mai divertito tanto. Non si preoccupi, Elizabeth. Ce ne andremo e loro non se ne accorgeranno. È ancora nella sua stanza. C'è la sua ombra che cammina dietro le tende. Eppure il portiere mi ha detto che ha chiesto il conto 1 ora fa. Andiamo a vedere. Nella stanza deserta, Augusta e Carl scoprono il mistero. Una figurina ritagliata che gira sul piatto del fonografo. Ma Augusta, come potevo immaginare? Sei il solito idiota, Carl. Presto, portami al porto. Presto! Intanto, il cugino Pete, innamorato di Elizabeth, si è unito a lei e a Mandrake per la caccia al tesoro e tutti e tre fanno rotta per i mari del sud. Che buffo! Lo zio Roger amava sempre scherzare, se conservi la testa. Uno scherzo, dice? Non lo credo proprio. L'isola di Cerevi è piena di cacciatori di teste. Ma almeno non ci dovremmo preoccupare di Augusta. Penso proprio che avrà rinunciato alla caccia. Speriamo. Ma sulla stessa nave anche Augusta ha trovato un nuovo alleato. Questa è la storia della caccia al tesoro. I miei fratelli mi hanno abbandonato. Se lei mi aiuta, avrà metà dell'eredità. E se quello che mi dice è vero, sarà più che sufficiente. Zio Roger era ricchissimo e tutta la sua fortuna è in quella cassaforte. Krag, dicono che nei mari del sud lei è una potenza. Quindi, arrivati là, non le sarà difficile mettere gli indigeni contro Mandrake. Certo, basterà dire loro che Mandrake vuol rubare l'idolo dall'occhio rosso. Però? Ma non è meglio aspettare di essere a Cerebi per sbarazzarsi di Mandrake? Perché aspettare, Augusta? Ho assoldato alcuni marinai indigeni e... cosa fatta, capo A? Questi mi sembrano animati da cattive intenzioni. Meglio far cambiare loro idea. Inutile buttarmi a mare, so nuotare come un pesce. Oh! Amici, restate! Sono un pesce che ama chiacchierare. Una magia! Dannazione! E allora, Krag? Ho cambiato idea. Sì, mi occuperò di Mandrake a Cerebi. La nave con i nostri eroi raggiunge Cerebi, l'isola dei cacciatori di teste. Al porto mi hanno detto che gli indigeni non sono pericolosi se non sono molestati. E noi non vogliamo dar loro fastidio. Ci basterà poter vedere il loro idolo dall'occhio rosso e trovare il terzo numero. Ti dico e ti ripeto, Gavari, che Mandrake è un vostro nemico. Dovete ucciderlo. Ma ora, signor Krag, la nostra è una tribù pacifica. Ma questo bianco vuole rubarvi l'idolo dall'occhio rosso? Guai all'uomo bianco, allora. Per questo sacrilegio, la pena è la morte. Quando penso che questi indigeni erano cacciatori di teste, ho un po' di paura. Tutto andrà bene, Elizabeth, purché, come ha scritto zio Roger, conserviamo la testa. Dovendo avvicinare il terribile idolo dei cacciatori di teste, riusciranno i nostri eroi a conservare la loro? Lo saprete alla prossima puntata. Riusciranno i nostri eroi a decifrare i numeri misteriosi, a strappare la bella ereditiera dalla perfida cugina e a trovare il mitico tesoro? E che ne so, non sono mica Mandrake. Posso solo salutarvi e darvi appuntamento all'ottobre prossimo. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà? Fa le